per un intervento di ristrutturazione e riqualificazione proprio di un ambiente cittadino, e quindi anche coloro che vengono da fuori, ecco, sono interessati, si pongono delle domande. Proprio per questo cerchiamo di dare un po' di risposte. Perfetto, ecco. Ma quale significato ha parlare oggi di una piazza di Treviso e precisamente della piazza di Santa Maria dei Battuti? Ecco, il significato è proprio questo. Perché ne parliamo? Perché è un importante intervento che è in corso, è iniziato nel maggio dell'anno scorso e si concluderà, si presume, prima di Pasqua. Quindi quasi un anno di lavori. Ovviamente questo non è di per sé normale, no? Un cantiere che rimane un anno, i tempi normali potrebbero essere 6-8 mesi. Ma le giustificazioni sono reali, non sono inventate, non sono fittizie, perché c'è la complessità di questo intervento che si è presentata a cantiere aperto, non in precedenza, non poteva essere prevista in precedenza perché si erano stati già condotti degli studi, delle indagini, e in sostanza è l'archeologia che si è ripresentata in un contesto urbano che non era urbano quando si è formata, ecco, questa realtà in precedenza non era un contesto urbano, quindi si presumeva che non dovesse esserci niente sotto. In realtà c'è stata tutta una realtà nuova che si è presentata, e io penso che anche i tempi, per carità, i commercianti che hanno l'attività sul posto sicuramente soffriranno e hanno sofferto anche dal punto di vista economico del commercio. Ecco, però poi ci saranno i benefici successivi, perché sostanzialmente una piazza che da asfaltata diventa una vera e propria piazza, cioè da una strada con l'asfalto si trasforma in una piazza, un sito di aggregazione, e quindi ci saranno i vantaggi anche per i residenti. Ecco, ma diciamo che il grande ritardo è dovuto alle indagini archeologiche che si sono dimostrate via via che si procedevano, ecco, la ditta che ha effettuato queste indagini su incarico e vigilanza e direzione sempre della Soprintendenza Archeologica del Veneto, ecco, man mano che procedeva trovava novità ulteriori. C'è anche un altro beneficio di cui noi godiamo adesso, che si può riscrivere in modo diverso una pagina della storia di Treviso. Perfetto. Non è cosa da poco, no. Perché no. I documenti ormai da secoli sono tutti conosciuti, i documenti importanti per la storia di una città, almeno quelli fondamentali che danno la cronologia, che danno l'evoluzione. Ecco, dopo ci sono tante cose di dettaglio. Certo. Però oggi è soprattutto l'archeologia che può dire qualcosa di nuovo, come certo. In questo caso. Possiamo dare una descrizione, sì. Quindi del... Ecco, allora, dove si trova questa piazza, proprio per chi non è trevigiano? Ecco. Si trova a metà strada circa tra la Piazza dei Signori e il Sile, e ed è la piazza di Santa Maria dei Battuti. Vorrei precisare che ha questo nome dal 1964. Recentissimo. Prima si chiamava Piazza dell'Ospitale o Piazza dell'Ospedale. Quando si è sviluppato ulteriormente il programma di investimenti del nuovo ospedale, un ospedale che inizia sostanzialmente nel secondo dopoguerra a Cafoncello, sì. C'era anche prima, ma per un reparto solo dagli anni 30. Ecco, quando si sviluppa il Cafoncello, negli anni 60 si è formata anche la piazza di fronte al nosocomio trevigiano, è stata posta lì, ecco, la toponomastica Piazza dell'Ospedale, e di qua si è recuperata quella che è la storia dell'ospedale di Treviso, che è una istituzione laicale fondata da una confraternita religiosa, quella di Santa Maria dei Battuti, cioè dei flagellanti. Ecco la spiegazione. E si trova questa piazza, come si può dire, una specie di trapezio irregolare, diciamo così, si trova di fronte all'antica facciata dell'ospedale dei Battuti, ecco, delimitata da cortine di palazzi, da queste schiere di palazzi sui due lati più lunghi, Sul lato, diciamo così, a monte, diciamo, ecco, si accede attraverso la fine di questa piazzetta, si va in piazza di San Leonardo. Sì, ecco. Sì. Ecco, e da notare che siamo vicini al Sile, perché al di là del compendio ospedaliero e tutta questa parte edilizia dell'ospedale, cosiddetto ospedale di San Leonardo, ma insomma diciamo l'ospedale Grando veniva chiamato, perché dopo ne parleremo, insomma c'erano tanti ospedali nel Medioevo a Treviso, ma questo era l'ospedale Grando. Ecco, sul lato opposto l'ospedale Grando si affaccia sul Sile. Ecco, si affaccia sul Sile. E sui due lati, se si guarda la facciata che oggi è prospiciente al fiume Sile, ecco, sui due lati si vedono che confluiscono le acque di due corsi, di due fiumi, di due canali, che sono il Cagnano Maggiore e il Cagnano Minore, minore detto anche Cagnano delle Beccherie. Ecco, questi Cagnani vengono detti, uno viene detto anche il Botteniga, insomma, ma sostanzialmente il loro nome è quello di Cagnano, Cagnano Maggiore e Cagnano Minore. Ecco, il Maggiore è quello più verso, come si può dire, verso la zona di via Carlo Alberto, no? Sì. Ecco, e il Cagnano Minore o delle Beccherie, perché è quello che attraversa la zona delle Beccherie, che qui alle spalle della piazza dei Signori, questo è quello che dà, diciamo che il suo fiume, il suo tratto è stato messo anche parzialmente in luce, passava sotterraneamente, ecco, con i lavori di ristrutturazione del vecchio ospedale, dell'ospedale, alcuni anni fa è stato riportato alla luce. Ed è quello che è sostanzialmente vicino al cosiddetto palazzo dell'umanesimo latino, che sarebbe il palazzo Bortolan, ecco, chiamato, esatto, di recente con questo nome. E, ecco, questa è un po' la descrizione topografica dei luoghi, questa è la collocazione. Benissimo. Comunque l'ospedale di San Leonardo ormai è vuoto, perché adesso è stato tutto portato di là. Oggi è un insieme di attività pubbliche e private, nel senso che c'è l'università, sì, l'università di Padova, con giurisprudenza nella parte del Palazzo Grande, quello che dà verso il Sile. Sì. Il resto sono attività commerciali, bar, una farmacia, negozi di vario tipo, e appartamenti e residenza. Ecco, diciamo, l'ospedale, il vecchio ospedale, aveva lì alcuni uffici fino a verso il 2000 circa, aveva degli uffici dentro, gli ultimi reparti erano andati già alcuni decenni prima, ecco, sì, definitivamente, sì, a Caffoncello, e quindi era stato acquistato dal comune, dall'ULSS, è stato acquistato da parte della Fondazione Cassamarca, la quale poi ha sviluppato il progetto con l'architetto portoghese di sistemazione, esatto, di tutto il compendio, compreso il palazzo Bortolan, compreso, ecco, il ponte che scavalca, compreso il ponte che scavalca il Sile, che va all'ex distretto militare, che è il convento, sì, di San, sì, Paolo delle Domenicane, ecco, e poi è stato ceduto agli imprenditori che hanno realizzato l'intervento. La fondazione è rimasta in proprietà del grande palazzo, del cosiddetto proprio palazzo, ecco, quello che dà verso il Sile, la riviera del Sile, e della chiesa, della pregevolissima chiesa di Santa Croce, che era la chiesa antica dell'ospedale dei Battuti. Perfetto, noi ci fermiamo adesso per il prossimo brano musicale, che è Città Vuota, di Mina. Molto bella. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride, e sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. E io vivrò con te tutti i miei giorni. Ed eccoci di nuovo con il nostro ospite, al quale chiediamo a bruciapelo: qual è la storia antica di quella porzione della città di Treviso che sappiamo essere veramente molto antica? Sì, allora si riteneva che in quella zona, che veniva a trovarsi sia in età romana sia nell'alto medioevo esterna alla città di Tarvisium, non esistessero insediamenti. Si riteneva che fosse una zona libera, semipaludosa, ecco, coltivata a tratti, barene, eccetera. Questa non era vissuta, quindi. Non vissuta, era la convinzione. E dove, sì. Dove questo pezzo di città? Dove è appunto dove si trova adesso la piazza di Santa Maria dei Battuti. Ho capito. Insomma, cioè vicino, dietro alla chiesa di San Leonardo, sì, dietro sì, alla sì, piazza sì. di San Leonardo. Sì. Ecco. E in effetti, ancora nel 1214, c'è un documento che dice che si tratta di un comitato tervisiano, adesso ve lo leggo in italiano, tradotto in nel comitato nel contado di Treviso, nel sobborgo della città di Treviso, nel luogo che viene detto Ultracagnanum. Sì. Ecco, quindi era ritenuta suburbio, quindi zona periferica, e fuori, esterna alla città, e non insediata o poco insediata. E poi vedremo più avanti, ecco, che la realtà invece era abbastanza diversa. Però questa zona era comunque attraversata da una grande arteria stradale, cioè Treviso era il punto di transito di coloro che da Venezia andavano verso il nord, verso le Alpi, il nord, attraverso la via ungheresca, e giungevano attraverso il Terraglio, entravano per la porta Altinia, attraversavano tutta la città, uscivano per la porta di Sant'Agostino, poi imboccavano verso il nord la strada, la via ungheresca, passava il Piave all'Ovadina, andava verso nord, e i commerci, i tralti, i pellegrini, ma ecco, facevano questa strada. Quindi questa strada, che è detta Via Regalis negli statuti del 1315, la strada regia, praticamente la strada più importante, la strada che facevano i sovrani, ecco, che quando scendevano da queste parti, ecco, attraversa proprio l'attuale piazza San Leonardo, e quindi la piazza dei Battuti è proprio, si affaccia, diciamo, su questa grande realtà viaria, di questa Via Regalis, che poi verrà detta col tempo anche Strada di San Michele, perché presso poco dove c'è la loggia dei Cavalieri, lì c'era la chiesa di San Michele, e quella strada poi è stata detta anche Strada di San Michele. E siamo attraversava il Quadruvium, che era il punto centrale della centuriazione romana, il Quadrivio, che è sempre lì, è quell'incrocio che ancora esiste vicino alla loggia dei Cavalieri. E poi questa era una zona, comunque la piazza di San Leonardo era una piazza molto importante fin dal Medioevo, perché era una delle tre piazze cittadine dove si facevano i mercati. Le altre due quali erano? Quella del Duomo che per molto tempo, fino anche all'Ottocento, non veniva detta Piazza del Duomo, veniva detta Piazza delle Legne. Delle legne, perché lì si commerciavano legnami praticamente. Sì, sì. Non è tanto grande. E poi c'era la Piazza del Carubio o Piazza di San Michele, quella che abbiamo detto, e infine la Piazza di San Leonardo. Queste erano le tre grandi piazze, le piazze dove si facevano i mercati, dove il banditore del comune andava a proclamare i bandi per le varie comunicazioni che venivano date alla popolazione. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che alle spalle di questa Piazza dei Battuti c'era un'altra importante realtà, che c'è tuttora, pur trasformata, che è la chiesa di San Leonardo, una delle chiese più antiche. Oggi è conosciuta dalla gente come la chiesa di Santa Rita, no? Perché c'è il culto a Santa Rita, però quella è la chiesa di San Leonardo, no? Sulla piazza di San Leonardo. Esatto. Una delle piazze, delle chiese, scusate, più antiche, perché si ritiene di origine franca, quindi siamo sul IX secolo, come origine, anche per il titolo, la dedicazione a questo santo. E vicino alla chiesa di San Leonardo, probabilmente contiguo alla chiesa di San Leonardo, c'era un altro importante sito, che era un punto di riferimento per gli abitanti e per i viandanti del tempo, che c'era l'ospedaletto di San Leonardo, documentato fino agli anni 30 del 200. E attualmente c'è ancora lì, in quella zona, un vicoletto dell'ospedaletto. L'ospedaletto, no? Di il vicolo Leonardo, dell'ospedaletto. Una vestigia, sì, una toponomastica. Toponomastica. Dobbiamo dire che allora le città erano piene di ospedaletti, perché noi non dobbiamo immaginare l'ospedale come lo conosciamo noi. L'ospedale, gli ospedaletti allora erano degli ospizi. Vero. Dove venivano accolti più i poveri, più i viandanti, più i diseredati, insomma coloro che avevano fame eccetera, che gli ammalati. Ho capito. E chi stava male ed era benestante non si sarebbe mai sognato di andare in un ospedale. Esatto. Era il posto proprio degli ultimi, cioè si facevano curare in casa i benestanti. Poi c'è un'altra realtà importante su questa, vicino alla piazza di Santa Maria dei Battuti, che è su un altro verso. Cioè, se noi guardiamo la vecchia facciata all'ingresso dell'ospedale, no? Dove c'è la colonna praticamente lì, da quella piazza, sulla sinistra si apre una stradina che attraversa il Cagnano, c'è un ponte, il ponte di Sant'Agata, e si va in via Carlo Alberto. Allora, lì all'angolo, ai piedi del ponte, c'era un'abbazia, l'abbazia di Santa Maria di Betlem o di Betlemme, che era di giurisdizione del vescovo di Betlemme. Un'abbazia benedettina, extraterritoriale, quasi sconosciuta ai trevigiani, perché non l'hanno mai vista, è stata demolita dopo il periodo napoleonico e il posto è rimasto libero fino a quando non si è costruito dopo la guerra, dopo la seconda guerra, il palazzo dell'Impdap, che c'è tuttora. Al posto del palazzo dell'Impdap c'era questa antica abbazia benedettina con tanto di chiesa, che poi diventerà, col passare dei secoli, prenderà il nome di Chiesa di Sant'Agata, da cui il ponte di Sant'Agata. Sì. Però c'è questa storia, è un importante sito anche questo, perché era un punto di riferimento per i pellegrini che andavano a Gerusalemme, quelli che facevano il tragitto, passando per Treviso, venendo dal nord, da una certa parte della Mitteleuropa, diciamo l'Ungheria, della Germania, eccetera. Questo era un passaggio obbligato. È un passaggio obbligato e lì trovavano accoglienza e proprio per questo appunto ne ha la competenza e viene investito del beneficio sempre il vescovo di Betlemme. Ecco, in questa zona dove ci sono queste puntuali presenze antiche, ma sostanzialmente poca residenza, avviene un fenomeno di fitto insediamento proprio verso la fine del X secolo e soprattutto dopo il 1000. Dopo il 1000 in tutta Europa si assiste a un grande sviluppo demografico, una grande crescita sotto tutti i punti di vista, compreso appunto quello della popolazione, e prendono consistenza le città, anche città nuove, ma soprattutto le città che si ingrandiscono, hanno bisogno di crescere. C'è un altro fenomeno che dal contado si confluisce nelle città e nelle città poi si sviluppa il commercio, nasce una nuova classe, cioè nasce la borghesia, sostanzialmente quella che poi vorrà prendere in mano anche il potere, esatto. E da qui si formano i liberi comuni. Quindi una sorta di inurbamento, diciamo. Esatto, Treviso ha tutta questa dinamica che esplode soprattutto dopo il 1000 in alcune direzioni, per esempio... da San Martino, sì. Tutti hanno presente il ponte, sì, di San Martino, sì. Dove c'era la vecchia chiesa e c'è la nuova chiesa di San Martino, ecco, si sviluppa oltre il Sile si sviluppa dopo il 1100, 1200, soprattutto in quei due secoli lì, la cosiddetta Città Nuova. Quella zona veniva, che oggi noi chiamiamo di Altinia, di Porta Altinia, via Roma, eccetera. Ecco, tutta quella zona si è chiamata per secoli la Città Nuova di Treviso, perché era proprio un insediamento nuovo, destinato soprattutto a funzioni pubbliche, oltre che a resistenza. Perché basta che voi pensiate, dopo ne parleremo, che il primo ospedale di Treviso si insedia lì, quello grande, dei battuti, sì. Si insediano in quella zona fino a più avanti, ecco, il convento delle Domenicane di San Paolo e il convento degli Eremitani di Santa Margherita, no? Le due realtà, certo. Di San Paolo, ex distretto, e la chiesa di Santa Margherita con i due chiostri che ancora ci sono, ecco, che i trevigiani conoscono bene, ma conoscono anche quelli che vengono fuori, perché l'archivio di Stato, per esempio, che è frequentato da molta gente che viene da tutta Italia, ecco, è proprio all'interno di uno dei chiostri di Santa Margherita. Ecco, per cui avviene questa dinamica. E la stessa zona di Santa Maria Maggiore, dove la chiesa era più antica, Madonna Grande. Ecco, per esempio, nel 1318, ecco, sì, c'è un documento, ma lì si forma anche lì. E viene chiamato il Borgo Nuovo di Santa Maria Maggiore, quindi insediamenti nuovi che si sviluppano. In questo contesto di crescita si sviluppa la residenza nel contesto dell'attuale piazza di Santa Maria dei Battuti. Perfetto, adesso passiamo alla prossima canzone, sì. Prossimo brano musicale, che è Come bella la città di Giorgio Gaber. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni. Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ed eccoci di nuovo in studio e naturalmente prima di passare la parola al nostro ospite abbiamo il siparietto tradizionale Storia de che altri, nel quale tentiamo così di dare ragione di barriere che possono essere linguistiche ma mai di sentimenti e di emozioni. Questa volta abbiamo di Fernando Pessoa, Tenho dó das estrelas. Tenho dó das estrelas, lucindo há tanto tempo. Há tanto tempo, tenho dó delas. Não haverá cansaço das coisas, de todas as coisas, como das pernas ou de braço. Cansaço de existir, de ser, só de ser, ou ser triste, brilhar ou sorrir. Não haverá, enfim, para as coisas que são, não a morte, mas sim uma outra espécie de fim, ou uma grande razão, qualquer coisa assim, como perdão. Ho pena delle stelle che brillano da tanto tempo, da tanto tempo. Ho pena delle stelle. Non ci sarà una stanchezza delle cose, di tutte le cose, come delle gambe o di un braccio? Una stanchezza di essere, solo di essere. L'essere triste, luce o un sorriso non ci sarà dunque per le cose che sono non la morte, bensì un'altra specie di fine o una grande ragione, qualcosa così, come un perdono. È sempre una buona domanda e lasciamo la parola al nostro ospite per chiedere come ha influito in questa parte della città l'arrivo dell'ospedale. Ovviamente una realtà pubblica così importante ha trasformato questa parte della città, però è necessario che noi facciamo un passo indietro e che parliamo un po' della storia di questo ospedale, che guardate era una realtà straordinariamente importante, l'istituto, la realtà economica più importante, più ricca della città e della podestaria di Treviso. È un ente che è arrivato nel tempo a forza di donazioni, di lasciti, di beneficenze ad acquisire qualcosa come 6.000 ettari di campi distribuiti. Però mai una volta erano più generosi. Lo lasciavano soprattutto nei testamenti. I notai avevano l'obbligo di chiedere a chi faceva il testamento cosa lasciava alle istituzioni benefiche, alle chiese, agli ospedali, eccetera. E quindi si è accumulato un patrimonio straordinario. E l'ospedale, che pur ospitava pochi pazienti, insomma, diciamo, arrivando fino a 200 massimo, insomma, sfamava 2000 bocche, di varie persone che lavoravano, le sue dipendenze, che facevano diverse cose, insomma. Ma questo ospedale come nasce? Nasce da una confraternita di flagellanti. C'è una si chiama, non a caso, Santa Maria dei Battuti. Ecco, siamo nel contesto della seconda metà del 200. Era un periodo in cui questi movimenti penitenziali erano diffusi in tutta Europa, molto anche nell'Italia settentrionale, e una delle loro erano dei laici, uomini e donne, ecco, che avevano, oltre alla penitenza che manifestavano flagellandosi in pubblico durante le processioni, eccetera, avevano come finalità proprio quella della sequela di Cristo, cioè di seguire Cristo e soprattutto di aiutare il povero, di aiutare il prossimo. Ecco, e ovviamente chi dovevano aiutare? Le persone che erano in difficoltà, i deboli, insomma, ecco, i poveri, gli ultimi, i viandanti, i pellegrini, i diseredati, eccetera. Per cui nascevano una serie di ospedali, ospedaletti un po' dappertutto, poche stanze magari, due stanze, tre stanze, sì, attaccate alle chiese, ai conventi, ai monasteri. Ecco, e in città di Treviso ce n'erano da 10 a 20, ecco, di questi ospedaletti disseminati, ma verso il 1269 abbiamo il primo documento, c'è la prima documentazione dell'esistenza di questa confraternita o scuola di Santa Maria dei Battuti, e che solo successivamente, dopo alcuni anni, e sicuramente verso la fine del 200, ecco, è documentato che attiva anche proprio questo ospedale, che aveva il significato di ospizio, soprattutto più che di cura. Ecco, per esempio, ricovero, ecco, i bambini abbandonati, cioè ecco. Gli esposti. E anche come un brefetrofrio. Un brefotrofio, gli esposti erano una delle attività che svolgevano, ma poi c'era l'ospizio per i viandanti, per i pellegrini. Ecco, e, un ostello, e quindi, diciamo, sì, ante litteram. Questo si sviluppa, questo ospedale, nella zona che abbiamo detto di San Martino, appena al di là del Sile, nella Città Nova. No, ecco, dove adesso, presso poco, dove c'è la stazione delle Corriere, sì, di Treviso, sì, che è lì vicino, ecco, sì. Presso poco, in realtà non sappiamo dove di preciso, eccetera. Ecco, e a un certo momento c'è una grande espansione, quasi spariscono gli altri ospedaletti, comunque sì, ecco, e quindi si sviluppa, c'erano centinaia e centinaia di aderenti trevigiani, sia maschi che femmine, a questa confraternita, donazioni, quindi proprietà, ricchezza che arriva, e ricostruiscono sul posto, verso all'inizio del 300, c'è l'ospedale nuovo di San Martino. Pochissimi anni dopo, appena finito l'ospedale nuovo, arrivano gli Scaligeri che conquistano Treviso, la città di Treviso, e decidono di fortificarla con una nuova cinta muraria che deve avere un suo baluardo, una specie di castello, ecco, proprio al di là del Sile, proprio dove si trovava anche l'ospedale di Treviso. Quindi espropriano l'ospedale e lo costringono a trasferirsi altrove. Il comune di Treviso indica, viene nominata una commissione dove andiamo a costruire il nuovo ospedale, sostanzialmente, e c'è un terreno libero che dà sul Sile, proprio vicino dove adesso si trova il vecchio cosiddetto ospedale di San Leonardo. Sì. Perché era libero? Perché era proprietà della famiglia dei Da Coderta, i quali alcuni anni prima, nel secondo decennio del 300, si erano schierati a favore degli Scaligeri, e quindi poi gli Scaligeri in quel momento non riescono a prendere Treviso e quindi vengono condannati all'esilio e le loro case vengono demolite, rase al suolo, come era capitato ad altri prima, i Da Camino, e le macerie di queste case dovevano rimanere visibili sul suolo per decenni, per monito. da monumento, contro coloro che avessero avuto l'intenzione di attentare le libertà comunali. Certamente. Ecco, e per cui quel posto era libero, nel frattempo era ritornato di proprietà dei da Coderta, e c'è Gualpertino da Coderta che ne era proprietario. Era suo padre quello che era stato oggetto di questa grave sanzione della demolizione della sua Domus Magna, della Casa Grande. Ecco, il padre Monfiorito da Coderta, appunto, ma adesso c'era proprietà lì sul posto. Adesso i trevigiani sanno bene che c'è la via Gualpertino da Coderta. Allora lì viene deciso che l'ospedale va lì e lo ricostruiscono. Abbiamo la notizia che l'ospedale è ormai efficiente e completo nel 1332. Da lì inizia tutta una storia di sviluppo e copre sostanzialmente sempre lo stesso sedime, che è questo grande quadrilatero che ancora adesso si vede. Sì. Cioè, da un lato sulla piazza di Santa Maria dei Battuti, e l'altro lato sulla riviera del Sile, e dagli altri due lati, tra via Gualpertino da Coderta e il Cagnano Minore o delle Beccherie. E si sviluppa a forma di quadrilatero, formula anche urbanistica interessante, tanto è vero che il primo storico trevigiano che dà alle stampe un lavoro, che è Giovanni Bonifacio, la prima stampa di storia di Treviso è la Storia di Trevigi del 1591, lui lo descrive così: è fabbricato quello ospitale in forma di una badia, ecco, nella quale sono l'arti più necessarie, e come luogo separato da sé si regge e governa. Cioè c'è un'autonomia, ma soprattutto dice è costruito come un'abbazia, come una badia. Cioè, quindi con un quadrilatero, quindi con questa forma conclusa, ecco, forma chiusa in se stesso, che possiamo dire è quasi una l'immagine dell'autonomia, anche perché poi lo spiega, dice si regge da sé, quindi non è amministrato dal comune, dipende da ma altri. C'è l'autonomia della confraternita, giusto, la quale appunto elegge i propri gastaldi, i propri amministratori, ecco, e questa è la realtà sostanzialmente che si presenta integra così com'è, con tutte le evoluzioni del caso, ecco, fino alla fine del Settecento. Con l'ingresso principale che non è quello sul Sile, noi oggi vedendolo potremmo pensare, ecco, la facciata più imponente è quella sul Sile. No, quella era l'entrata di servizio. Ah. La porta orientale, che era quella lì, era verso il porto, perché lì sulla riviera, ecco, c'era il porto del Sile. Fino a quel punto arrivavano i navigli che provenivano da Venezia e che commerciavano grani, vino, legnami, eccetera, con Venezia. Mentre sul lato opposto abbiamo l'ingresso principale, tant'è vero che c'è la lunetta, ancora oggi lì c'è un portale rinascimentale, ecco, con una lunetta affrescata da Giovanni Battista Canal, c'è la Vergine con i santi, con due santi ai lati, ecco, e quindi è questa la realtà che si forma. C'è un ultimo particolare che vorrei sottolineare, ecco, della realtà topografica e dei cambiamenti che porta questa presenza ospedaliera in quel sito della città. Chiunque passi di là, e fra poco si passerà solo a piedi, ecco, una volta si passava in macchina, purtroppo non si osservava, adesso si vedranno le cose, sì, con la piazza bella in pietra viva, eccetera, esatto. Ecco, vede come punto focale di quella piazza una colonna in pietra d'Istria a forma quadrata, alta 4 metri, ed è la colonna di Santa Maria dei Battuti, perché ha sia i simboli della Madonna della Misericordia, quella col manto aperto e i devoti sotto, accolti sotto il suo manto, no? Che è scolpita sui lati del marmo, sia la banderuola in ferro battuto sopra, bellissima ed elegantissima, è un pregevole manufatto di fine Cinquecento quello. Ecco. Mm-hmm. La colonna dell'ospedale è da un lato un segno di confine, perché è posta esattamente sul punto che faceva da confine tra la proprietà della confraternita, quindi dell'ospedale, ecco, e il suolo pubblico della piazza, o pubblico privato, dopo ne parleremo, sì. Ecco, che c'è sul lato opposto. Ma è anche un simbolo identitario. Nel passato è quello il segno, ecco, dell'ospedale e della continuità della confraternita dei battuti attraverso le opere di misericordia, di ricovero dei poveri, dei pellegrini, dei viandanti e dei malati, ma è identitario anche e a maggior ragione oggi, che sono stati tolti tantissimi altri segni che dicono che lì c'è stato per secoli un ospedale. Quello è un simbolo identitario che vale per oggi e per il futuro. Perfetto. Allora andiamo con l'ultimo brano musicale, che è Un albero di 30 piani di Adriano Celentano. Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciati la metropoli. Belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano. E dicevano, quelli vengono dalla campagna. Ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro. Tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera. Nuda sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre. E le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che però la città è moderna. Ti chiude anche il naso. La nevrosi è di moda, chi non l'ha ripudiato sarà. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po'. Sento il fiato che va giù e non viene su. Vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero di 30 piani. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche di questa affascinante descrizione, diciamo, di altri tempi, ma anche di tempi moderni. Ed ecco che appunto chiediamo che cosa sapevamo fino a ieri di questa piazza e cosa possiamo dire che ci abbiano fatto conoscere le indagini archeologiche che sono in atto. Sì, allora, come dicevo, cambia completamente la pagina di storia della città di Treviso relativa a questo compendio urbanistico. Noi sapevamo e presumevamo che la piazza dell'ospedale, poi detta piazza di Santa Maria dei Battuti, esistesse così come la vediamo oggi praticamente dal 300, da quando si è insediato l'ospedale. In realtà non è non assolutamente è così. Perché si pensava, si aveva questa certezza? Perché di Treviso purtroppo abbiamo una... La più antica mappa di Treviso è molto tarda, del 1620 circa. E, per capirci, ci sono località trevigiane che hanno delle mappe del 500. A Treviso non esiste nessuna mappa del 500 sulla città. C'è questo dipinto su tela del Museo Civico di Treviso, esposto al Museo Civico di Treviso, in cui c'è a volo d'uccello è raffigurata tutta la città di Treviso con le sue belle mura cinquecentesche e tutti gli edifici grossolanamente dipinti, però topograficamente rispettosi delle varie realtà, e per cui la piazza è questo trapezio che conosciamo. Ecco. E con gli scavi archeologici invece si è visto che sotto la piazza praticamente, tranne che per alcuni metri, diciamo fino dalla facciata del vecchio ospedale fino alla colonna, ecco, tranne quello slargo lì, il resto praticamente è tutto pieno di insediamenti residenziali. Ci sono fondazioni di case, di edifici, di palazzi, di strutture varie che adesso gli archeologi dovranno interpretare. Alcuni sono dei sedilia, cioè erano i gabinetti, altri sono dei plinti per colonne, eccetera. Insomma, murature, ci sono delle strutture con delle volte ad arco, ecco, di copertura, eccetera. Quindi saranno dei sotterranei, probabilmente, eccetera. Era completamente insediata, e quindi è quella realtà urbanistica che si era formata dopo il 1000, prima che lì vicino l'ospedale nuovo, sì, ecco, dei Battuti, e che poi si è stata demolita per dare l'attuale configurazione della piazza. Questa piazza, così come adesso, allora, quando si è formata? Allora, abbiamo detto che abbiamo la mappa del 1622, però possiamo presumere anche dai dati archeologici, questi edifici sono del 1100-1200 circa, e probabilmente qualche secolo di vita avranno avuto. Certamente. Purtroppo ad oggi non ci sono altre restituzioni archeologiche, una moneta, qualcosa che possa dare alcune indicazioni. Chissà che moneta usavano allora. C'erano le monete dal 300, quelle veneziane, ma prima c'era anche la zecca di Treviso, ma bisogna andare molto più indietro. Sarebbe interessante. Però diciamo, questa zona praticamente aveva queste abitazioni che poi sono state demolite per dare spazio alla piazza. Probabilmente questa operazione è avvenuta tra la fine del 400 e gli inizi del 500, sia per la tipologia di alcune costruzioni, anche se adesso in facciata magari vediamo che hanno più un aspetto 700-800, ma ci sono comunque dei particolari nella zona dei barbacani, per esempio questi. Che consentono di farli salire. Ma anche tutto. Altri particolari, si presume tra fine 400 e il 500. C'è una cosa che non era mai stata notata, che è lì sotto gli occhi di tutti e che con gli studi che abbiamo condotto in questo periodo, dà quasi una datazione antequem, cioè prima di quella data. C'è uno stemma su un edificio alto, ecco, proprio per quello non è mai stato guardato bene. Ecco, c'è uno stemma, un monogramma bernardiniano, cioè sono quei cerchi di raggiati che sono diffusissimi in tante città, soprattutto a Treviso ce ne sono tantissimi, in Pietraviva, dipinti ad affresco, in varie parti della città ci sono questi monogrammi con IHS al centro, sì, deriverebbe dal greco Jesus, yes, Jesus, no? Non Jesus Homo Salvator, vabbè, sì, ma sì, yes, ecco, che sono detti in monogrammi bernardiniani, per ricordare il passaggio per la città di Treviso di uno di quelli che erano gli uomini più famosi del suo tempo nel 1423, cioè San Bernardino da Siena, sì, che ha toccato nel suo itinerario di predicatore anche la città di Treviso, facendo confluire una moltitudine enorme di gente, ecco, per predicare in onore del nome di Gesù e contro l'usura degli ebrei. Questi erano i due argomenti. Per ricordare questo evento, la città è stata riempita di monogrammi bernardiniani e ce ne sono a decine ancora, basta guardare in alto, ecco, nei palazzi, ecco, lì si vede. Bene, questo di Piazza di Santa Maria dei Battuti è l'unico, a quello che conosco io, che ha una data. Pur a brasa in una parte, ma è facilmente ricostruibile, ecco, logicamente, porta la data 1504, 10 marzo. Ecco, è tipico, ecco, quello di mettere nei palazzi, mettevano il giorno esatto della fine della costruzione. Quindi, quel palazzo sappiamo che è del marzo del 1504, e quindi quello era il contesto, fine 400, inizio 500, che si sono formate le disposizioni di edifici, le cortine di edifici che oggi vediamo, e probabilmente in quel contesto è stato liberato lo spazio centrale dagli edifici, dei vecchi edifici, e quindi, ecco, sappiamo poi da altri documenti di quel periodo, per esempio gli estimi della città, dove abbiamo la descrizione non grafica ma descrittiva proprio degli estimi del 1518, sì, di ogni casa, ecco, sappiamo che in quella piazza c'erano molte case con bottega, cioè che al piano, sì, sì, terreno, ecco, c'erano le botteghe, certo, negozi, certo, eccetera, che vuol dire ormai si era formata la piazza con l'estensione tale da consentire appunto lo anche il commercio e lo sviluppo. Ecco, vorrei dire, gli studi da parte degli archeologi, poi no, non è solo il gruppo di coloro che hanno scavato, che ha lavorato lì, ma ci sono delle equip di specialisti che poi devono analizzare, ecco, i vari reperti. Per esempio, si stanno facendo ancora gli esami al carbonio 14, perché sono emersi anche elementi, cioè dei reperti naturali, diciamo, scheletri, intanto parecchi scheletri, e poi pezzi di legno, eccetera, soprattutto col legno adesso si sta tentando di dare una datazione. Su quanto agli scheletri, li ho visti anch'io parecchi, perché sono passato di lì molte volte, ecco, con gli amici archeologi a valutare, da storico appunto a dare il mio contributo rispetto a quello che loro mettevano in luce progressivamente. Ecco, quanto agli scheletri, dobbiamo dire che gli scheletri sono naturali, quello sì era da aspettarselo, perché soprattutto nella zona vicino alla chiesa di San Leonardo, vicino alla chiesa, l'abbazia di Santa Maria di Bethlehem, era logico aspettarsi, perché e fino all'epoca napoleonica, quando è intervenuta la proibizione, le persone venivano sepolte in città o dentro le chiese per i più facoltosi, sì, esatto, oppure, più benemerenti, oppure nel cimitero che era proprio sul perimetro delle chiese. Sì, sì, e sì, quindi è chiaro che sul posto della strada che c'è sul fianco della chiesa di San Leonardo, ecco, non si poteva aspettare altro che l'emersione, che la restituzione alla luce di questi reperti antropici. Ecco, questa è sostanzialmente la realtà. Quindi oggi, conclusivamente, possiamo dire, ecco, sappiamo che la storia di quella piazza era è diversa da quella che si presumeva, che gli storici con i documenti avevano messo in luce. Sappiamo che è una piazza di formazione non trecentesca, ma 4 o d'inizio 500, ecco, e sappiamo adesso anche che va e deve essere valorizzata non come strada, ma come piazza, quindi come punto di aggregazione importante per la città. Noi ringraziamo. È stato meraviglioso, è stato splendido questa dissertazione. Proprio una bella esposizione. Non possiamo far altro che dare appuntamento ai nostri amici e alle nostre amiche. Per la prossima domenica. Volta. A Dio piacendo. Esatto. E anche al signor Sartor, se sarà possibile, che ci faccia ancora qualche altra conferenza. Ben volentieri, bellissima. Grazie, ecco. E saluto tutti gli ascoltatori. Ecco. E salutiamo i nostri ascoltatori. E li saluto sempre col mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.